140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola per un appuntamento speciale con gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte di 140 caratteri. Come sempre seguiamo tutti gli eventi con Radio 24, li raccontiamo in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. In questi giorni di festa ritroviamo i più grandi protagonisti delle interviste di 140 caratteri. Studi di Radio 24, Milano. Con il cofanetto 30 e poi parte seconda, festeggia i 30 anni di un'incredibile carriera. Amica di generazioni di bimbi, Cristina D'Avena. È un'opera, è un progetto molto molto importante, devo dire, perché è molto emozionante, emozionale. Ti riporta davvero ai primissimi anni, no? Sia per quanto mi riguarda, perché appunto ci sono i miei esordi, quindi quando ho iniziato, ma anche per chi in realtà mi segue da sempre, è un modo veramente per rivivere le trasmissioni più importanti, più belle degli anni 80 e degli anni 90. Io lo so che tu arriverai e con te porterai. Così Natale più bello sarà se starai accanto a me. Alla scoperta di Babbo Natale, alla scoperta di carriera, che solitamente un artista festeggia molto più in là nell'età, tu invece hai esordito giovanissima, sono anche 30 anni di vita. Sì. Quando tu ti riascolti o ti rivedi, che sensazione ti dà ripercorrerti da ragazzina, da ragazza più matura? Che cosa rivivi? Ma guarda, mi emoziono molto perché io poi sono una nostalgica, sono molto legata, cioè vivo tutto con molta passione, quindi ricordo tanti particolari della mia vita e quindi rivedermi in TV e rivedermi, che ne so, in una trasmissione, una mia primissima, mettiamo un premiatissima o un popcorn o un super classifica show, sono emozioni indescrivibili, emozioni molto importanti, no? Molto forti, perché io me lo ricordo in realtà quel momento e lo rivivo. È già Natale ed eccoci qua, un anno è passato e un altro arriverà, per tutti è Natale, la festa unirà vicini. Di carriera significa che tu sei nell'immaginario un'amica per i bambini che adesso hanno dai 35 sì. anni, davvero tante generazioni di bambini. Sì. Che effetto ti fa sentirti, perché poi immagino che sia un continuo quando le persone ti incontrano, sentire l'affetto di persone peraltro di età talmente diverse tra loro? Beh, allora considera che io ho iniziato a cantare da piccola, piccolissima, perché è vero sì che io ho iniziato a cantare le sigle a 17 anni, ma io a 3 anni e mezzo ero nel allo Zecchino d'Oro e cantavo il Moscerino. E in quegli anni lo Zecchino d'Oro era molto molto seguito, erano proprio i primissimi anni, quindi non so, i 44 gatti, Popoff, il Torero Camomillo, il Valzer del Moscerino, sono tutte canzoni che comunque tutti ricordano tanto, no? E sono veramente impresse nella mente. E quindi quando ti fermano le nonne o le mamme e ti abbracciano e ti dicono: ma io mi ricordo di te, tu sei come una nostra parente ormai, perché è vero, dice, io ti ricordo dal Moscerino e poi sai, i miei figli guardavano e i miei nipoti guardano i cartoni, se vuoi venire anche a casa nostra, guarda, ormai noi ci conosciamo e ti conosciamo da sempre. Ed è una cosa che mi dicono spessissimo, ed è vero, dai nonni ai ragazzi ai bambini. Devo dire che questo amore profondo che le persone nutrono per me è un amore veramente vero, cioè mi rendo conto che quando mi abbracciano, cioè io lo dico sempre anche a mia sorella, dico: ma se un giorno mi dovessi trovare in difficoltà, io chiamo il mio pubblico, le persone che mi amano, anche chi non conosco, ma credo di potermi immediatamente riprendere, anche se avessi qualche problema mio personale, per dire, no? Perché mi amano talmente tanto e mi danno un amore e un affetto talmente vero che non mi sento sola. La notte è scesa qua giù, ma io paura non ho, perché le stelle lassù brillare vedo da un po'. Le stelle guarda anche tu, nel cuore luce entrerà, paura non avrai più, un mondo nuovo sarà. Le stelle brillano negli occhi, se guardarle saprai, su nel cielo le toccherai. Negli occhi brillano le stelle che guardando tu stai, quante stelle. Fan però sono anche pazzi, perché tu nel tuo immaginario unisci da un certo punto di vista l'amore e la nostalgia per alcuni anni molto spensierati che abbiamo vissuto tutti, gli anni 80 ma anche gli anni 90, e poi l'immaginario dei cartoni animati, quindi ci sono anche i pazzi per i cartoni animati. Quindi quando hai dovuto confezionare questa raccolta, sei andata anche alla ricerca delle chicche, cose registrate ma mai incise, perché c'è anche una filologia, in rete si trova qualsiasi cosa, una sì, vera sì. E propria esegesi dell'opera di Cristina D'Avena. Non solo, ma se non si trova, i fan vanno in tilt, perché se si ricordano una sigla e non la riescono a trovare, vanno in tilt, perché non c'è. Fa piacere, insomma, perché ti vengono in mente comunque, poi ecco, il cartone animato, la sigla, il momento, poi magari nel nulla, perché mai pubblicate, mai più riascoltate. E adesso mi è venuta voglia, ad esempio, di cantare ai miei concerti, ai miei spettacoli, nel Tunnel dei Misteri, questa canzone qua, che mi piace da impazzire, col sax. No, vabbè, dovete sentirla, è troppo carina. Nancy è una ragazza che sa quel che fa, frequenta con profitto l'università, risolve ogni mistero con abilità e vive in un appartamento giù in città. Frank e Joe sono due fratelli in gamba che percorrono la strada che hanno davanti a sé. Il loro grande intuito non li lascia mai, per questo sanno sempre come uscire dai guai. Indagini a tappeto per un enigma proprio inconsueto. Chi scoprirà il segreto diventerà davvero un grande. Anni di carriera nei quali tu hai cambiato il concetto della sigla televisiva in Italia, perché prima di te era una cosa e con te, dopo di te, tutto un'altra. Adesso però non ti verrebbe, per i tuoi 30 anni di carriera, di regalarti qualcosa di completamente diverso, un album di Cristina D'Avena con delle canzoni, prendila così con le pinze questa affermazione, da grandi. Cioè, io mi divertirei moltissimo a vedere Cristina D'Avena sul palco del Teatro Ariston di Sanremo con una canzone d'amore, non lo so, sarebbe bello. Perché no? Guarda, devo dire appello a Fazio subito. Guarda, perché no? Sarebbe molto molto molto, non dico divertente, però sicuramente aggiungerei a questo mio bagaglio bellissimo, no? Di esperienza, di soddisfazione, anche un qualcosa di diverso e qualcosa che io regalo a me stessa e ai fan. Ma se questo non dovesse accadere adesso, sicuramente un album un po' diverso, magari con... perché no, magari delle cover, magari ad esempio io adoro Jovanotti, mi piacerebbe tantissimo duettare con lui, ad esempio cantare con dei miei colleghi, al limite anche proprio le mie sigle dei cartoni, perché secondo me vedere un mio collega che canta i Puffi o che canta, che ne so, Holly e Benji, e che comunque le ha cantate da piccolo e le ha ascoltate, secondo me sarebbe talmente bello, talmente fuori dalle righe, talmente divertente, ma anche proprio per me, per condividere questa bella emozione, perché tutti siamo stati piccoli, tutti abbiamo attraversato quel momento e tutti abbiamo visto il cartone, o quello o un altro, ma tutti siamo legati ad un cartone. Infatti, ad esempio, alcuni miei colleghi che sono venuti ai miei concerti, devo dire, si mettono a cantare come pazzi le canzoni perché se le ricordano tutte. Quindi, insomma, ci sono un po' di idee, un po' di progetti che in realtà mi piacerebbe sviluppare. Non so se saranno a breve o che, però comunque mi piacerebbe sì fare anche altro. Le sigle sicuramente, perché ci saranno probabilmente anche più avanti nuove sigle di cartoni, quindi un'altra bella apertura nel mondo dei cartoon, che adesso era rimasto un po' sacrificato. Però, insomma, anche progetti diversi, perché no? Dobbiamo capire un po' di cose, ovviamente, perché sai, non, dire si fa presto, poi realizzare si fa molta più fatica. Però i progetti ci sono, la voglia c'è e quindi sicuramente il mio pubblico si potrà divertire, secondo me. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri. Continuate a seguirci ogni giorno seguendo il mio account @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano nei nostri appuntamenti speciali delle feste e come sempre ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.